abbiamo fatto la presentazione anche il discorso, con Elisa Pagni, per chi c'era, per chi non c'era, è un'azienda di Lucca che si occupa di risparmio energetico, sia con credo come si dice, clienti istituzionali che anche con i privati cittadini, gruppi di acquisto eccetera. Adesso ci illustrerà un po' di progetti che stanno facendo, un po' di normative, adesso non so, lascio la parola perché vediamo, ecco, vediamo poi se questo materiale ci... questo ve lo lascio, sì. Sì, perfetto, noi faremo le copie o comunque cerchiamo di... ci dai i file e le mandiamo più facilmente se c'è Sì, vi do proprio fare. Perfetto, va bene, adesso lascio la parola, basta, un'ora, un'ora e mezzo di intervento più o meno, poi tanto lo mettiamo qua su. Allora vi racconto un pochino di che cosa si parla. Io non vi conosco, non so esattamente, diciamo, qual è la vostra formazione, qual è la cosa che volete generare, potete approfittare per fare delle domande, se ci sono delle cose che volete approfondire, volete sapere di più. Cioè, io sono il direttore tecnico di CMTN, che è una ESCO, ma soprattutto insomma, una società che cerca di fare business con le rinnovabili, insomma, quindi, come tante altre. Direttore tecnico significa che sostanzialmente gestisco una struttura tecnica fatta di 4 ingegneri che operano in vari settori. Queste società, ce ne sono tantissime, sono nate abbastanza recentemente, insomma, le società più vecchie in Italia che fanno questa attività sono società che hanno 3-4 anni, quindi la nostra è nata a gennaio, insomma, in tempi velocissimi, ha assorbito un'altra società che già operava nel settore, e ha preso questo tipo di competenze. Quindi noi di fatto seguiamo progetti veramente di tutti i tipi, perché come struttura di società non siamo una struttura che fa installazione, e questo significa che fa programmazione sostanzialmente. Programmazione significa cercare di capire quando si va in un posto, quando si va da un cliente, che cosa veramente gli può servire, quale può essere il suo business, quale può essere il suo interesse. Una volta che si è capito questo, si è in grado di fare, diciamo, delle offerte, delle proposte economiche per dire guarda, con questi soldi ottieni questo risultato, che può essere un risultato di investimento o può essere un risultato di riduzione. Una volta fatto questo, queste società, diciamo, cercano di capire quanto costano queste opere, cosa chiaramente non sempre semplice, cercano di capire come si fanno, quali sono la miriade infinita di normative che ci sono all'indietro, diciamo, per ottenere questo tipo di opere, e poi a quel punto, se il cliente o l'ente si fa, diciamo, convinto di voler fare queste opere, in qualche modo firma dei contratti, che possono essere contratti di fornitura, contratti di vendita, contratti di esco e via dicendo. Fatto questo, poi va a cercarsi gli installatori, i progettisti che gli servono per fare le cose. Quindi questa è un po' la forma, diciamo, ottimale, se vogliamo, di una società che opera in questo settore. Chiaramente non sono tutte così, ci sono società che hanno fatto il percorso inverso, cioè erano sostanzialmente degli installatori o delle società, diciamo, di ingegneria in qualche modo, che operavano già in alcuni settori, e quindi al limite hanno solo ingrandito quella che era la loro sfera di azione. Tanto per capirsi, un installatore elettrico, se è una persona abbastanza sveglia, si accorge che esiste un business che si chiama fotovoltaico e dice ma io insomma quasi quasi mi ci butto, acquisisce le competenze che gli sono sufficienti per fare questo tipo di attività e comincia a fare il fotovoltaico, oppure un solare termico, oppure un'altra cosa. Noi invece, essendo una società che, diciamo, trae origine la CMT da una forza finanziaria, significa che le persone che l'hanno desiderata e voluta erano dei grossi imprenditori da una parte, dei personaggi che comunque avevano la necessità di muovere soldi, hanno diciamo, preferito e hanno sposato questa maniera, che è una maniera molto più, diciamo, di un livello un po' più alto, uno scalino un po' più alto, quindi legata alla programmazione, che significa maneggiare tutte le tecnologie, non una, perché quella lì la conosciamo bene, no, avere una visione più ampia. E questo ci ha portato come società, diciamo, a seguire progetti in tutti i settori delle rinnovabili. Quindi noi, nonostante siamo una società così giovane, di fatto seguiamo un progetto in Albania per una centrale idroelettrica, un progetto di tipo CDM, quindi siamo in contatto con questi signori, stiamo facendo delle valutazioni di varia natura. Sono dei progetti particolari, sono legati all'emission trading, poi casomai ne parliamo, i famosi certificati verdi, uno sforzo della comunità europea per cercare di ottenere le riduzioni di emissioni, quello di cui tanto si parla, che alla fine è diventato un fenomeno, diciamo, anche politico e di costume. Significa che in effetti io, se dico all'Italia che l'Italia deve ridurre o mantenere le sue emissioni in un certo livello, da una parte gli dovrei dire tu devi ridurre queste emissioni, però dall'altra gli potrei anche dire tu queste emissioni li puoi ridurre in un altro paese, magari l'Albania o la Romania, tanto a livello di equilibrio globale va bene lo stesso. Io dovevo ridurre 8 tonnellate qui in Italia, le ridurre in Albania, insomma, per il pianeta non cambia nulla, anzi. Perché allora dovrebbe, diciamo, l'italiano preferire questa strada? Perché in Italia, per avere una riduzione di emissioni di quel tipo, bisogna fare degli interventi estremamente costosi, perché noi abbiamo già un livello di tecnologia buono, insomma, medio e buono, quindi io devo andare a sostituire una centrale che già è buona, e per farla ridurre di meno, insomma, devo consumare molti soldi. Invece in Albania vado lì e trovo delle montagne di immondizia che gli danno fuoco, quindi con un intervento molto economico ottengo dei grandissimi benefici. Questo è il meccanismo. In quel caso CDM significa che lo Stato addirittura mi finanzia a me, mi dà dei soldi, affinché io con i soldi miei vado in Romania a fare un'opera del genere, o in Albania o dovunque sia, nei paesi, diciamo, convenzionati, anche all'esterno della comunità europea. Insomma, un sistema molto molto interessante, si chiamano emission trading, quindi il commercio del carbonio, se vogliamo, che 2-3 anni fa era un'ipotesi, invece oggi è una realtà. Quindi sappiamo quanti soldi valgono queste cose qui. Questo è un progetto che la CEPET insegue. Poi seguiamo un progetto per un parco eolico, diciamo, di grossa taglia, intorno ai 10-12 mega. Esiste un investitore, diciamo, indiano, nel nostro caso, che tramite una merchant banca di Milano, sanno che effettivamente in Italia è una grossissima opportunità l'eolico attualmente, perché ha un'incentivazione esagerata, cosa che addirittura viene contestata, diciamo, politicamente da tanti, sono troppi soldi. Quindi questa cosa è una cosa nota a livello, diciamo, mondiale, e quindi questi signori sanno che questo business è valido, arrivano con una montagna di soldi e dicono: ma noi vorremmo farlo, come si può fare per farlo? In questo caso noi siamo il tramite ideale per un'opera del genere. Perché? Perché da una parte contattiamo il produttore, quindi in questo caso la Vestas, e gli diciamo: senti un po', ma di queste palme quanto costano, quanto vuoi, com'è la manutenzione, quanto producono, come funziona, qual è la normativa e quali sono i diritti e le regole. Questo lo scopriamo noi, è il nostro lavoro, ok? Quindi siamo persone che passano il tempo a studiare queste cose. E poi da un'altra parte vengono fuori le altre problematiche. Il produttore mi ha trovato, mi dice: guarda, io con 1 milione di euro a mega installo un parco che è circa grosso come quello che vedete a Pontedera, insomma, è un parco di queste dimensioni, da una parte. Dall'altra parte però poi ci vuole la valutazione di impatto ambientale, ci vuole un territorio dove la comunità ha accettato che ci sia un parco del genere. E quindi vengono poi tutta una serie di altre tematiche abbastanza complesse che noi sviluppiamo. Arriviamo a un fondo e poi alla fine la speranza è che tutte le cose funzionino, qualcuno metta soldi, le banche dicano sì, e si facciano le opere. Quindi questo è un altro grosso progetto che seguiamo, ma ne seguiamo veramente di tantissimi tipi. Ne seguiamo alcuni sulla biomassa, non intesa però la biomassa prima, perché insomma quella attualmente non rappresenta non ha rappresentato un business, è qualcosa di molto complicato, e casomai se c'è tempo approfondiremo. Ma la biomassa, diciamo, dell'olio combustibile, quindi noi parliamo di olio di palma, pure olio di girasole, è quello che si può ottenere coltivando. E in questo caso l'interesse è verso gli motori endotermici, quindi ci sono motori di taglia di 1 mega, 2 mega, 10 mega, dei motori pazzeschi di dimensioni ciclopiche, e nel quale si possono fare degli ottimi business. Poi anche qui la normativa è estremamente complessa, è sempre anche sotto trasformazione, perché magari a gennaio dicevano una cosa, poi politicamente la filiera lunga, la filiera corta, ci sono state delle polemiche, casomai cercherò di farvi capire, e quindi non sono mai cose così semplici, però di fatto per un progetto attualmente con un motore del genere ha un tempo di ritorno, un payback time dell'ordine di un anno e mezzo, 2 anni, sono delle cose pazzesche. Sì, io come venditore tiro fuori 1 milione di euro e guadagno circa 300-400 mila euro l'anno. Quindi sono ai vertici, diciamo, del ritorno economico. Poi c'è dell'incertezza dovuta alla normativa, agli incentivi, al costo diciamo, della materia prima, quanto costa l'olio, posso prendere l'olio di palma oppure non lo posso prendere. Insomma, esistono tanti problemi. In questa direzione noi non abbiamo ancora realizzato nulla, però abbiamo diversi clienti interessati che hanno fatto offerte economiche, di rendimento economico di questa tipologia di intervento. Questi quando riguardiamo tutti. Poi trattiamo, essendo una ESCO, mi farò capire perché, proprio le ESCO si interessano anche di turbine, ecco, quindi trattiamo anche di turbine a gas. Significa, io mi compro il gas, accendo questa turbina in qualche modo mi produce la corrente e l'acqua calda, quindi sono in cogenerazione, in alcuni casi anche in trigenerazione. Io ho offerto una turbina in trigenerazione, uno sporting plan, come massimo vogliono comprare una turbina, eppure invece sono le società più interessate alle turbine in trigenerazione, perché hanno degli enormi ambienti da raffrescare, quindi diciamo, una enorme palestra, non lo usano per 6 mesi l'anno perché è troppo caldo. In quel caso la ESCO è determinante perché la ESCO, diciamo, può gestire i certificati bianchi, che poi magari vedremo che cosa sono un altro tipo di certificati ulteriori. Quindi seguiamo questo tipo di progetti sulle turbine. Poi seguiamo anche progetti, uno dei più complessi, è da un 400 esecutivo, diciamo legato al biogas. Al biogas data discarica, quindi c'è la discarica di Lucca, che sta qui tra l'altro, gestita dalla GEAN, che è una discarica della città, tratta circa, diciamo, un volume equivalente a 100.000 unità. Cosa significa? Che tutta la discarica della città finisce in un posto dove la roba in qualche modo viene trattata, sistemi anche abbastanza complessi, e alla fine finisce in un digestore, un oggetto che si chiama digestore, che se ci fate caso li vedete sempre, è un bussolo grosso, tondo. E questo oggetto avviene una trasformazione organica, praticamente semplicemente tenendo un materiale organico, addensato ovviamente, non proprio l'acqua sporca, addensato, e tenendo all'interno di questa struttura la temperatura a 39 gradi, c'è una trasformazione, si chiama mesofila, mi sembra, sì. Una trasformazione mesofila per cui in qualche modo questa roba opportunamente agitata, rimossa e scaldata, sono meccanismi abbastanza complessi, produce metano, produce una grande quantità di metano. Grande quantità di metano che può essere, diciamo, utilizzato ai fini energetici, ma può essere, diciamo che alla fine è diventata veramente una risorsa. Una volta si scherzava su questa cosa, diceva, insomma, se si potesse fare soldi, invece si fa. Produce tutto questo metano può essere utilizzato per mandare o un motore endotermico al solito o una turbina. In particolare noi per la GEA abbiamo fatto un progetto esecutivo, che significa non è un una cosa di programmazione, io dice, ma secondo me qui andrebbe bene questo, abbiamo proprio fatto dimensionato completamente l'idea, nel quale abbiamo anche innestato dentro un campo solare, ossia abbiamo progettato un campo solare di dimensioni enormi che non ha le quali in Italia, che è di 570 collettori, è una cosa inimmaginabile, con problemi anche di progettazione, perché non si era mai pensato di trasportare l'acqua calda in un numero così grosso di collettori, una cosa metterne quattro su una casa, no? E ci stai bene, ma entra di qua, l'acqua esce di qua e funziona tutto bene. Invece in questo tipo di progetto le cose sono abbastanza complicate. Con questo campo siamo andati, diciamo, a un certo punto a far finire quest'acqua di un accumulatore, quindi abbiamo, diciamo, progettato un accumulatore grosso come questa stanza, pieno di acqua. Quindi l'acqua calda, poi i fanghi passano dentro questa struttura, ho fatto tutti i calcoli proprio matematici, diciamo, del profilo della temperatura sui tubi. È uno scambiatore, quindi è uno scambiatore accumulatore, anche perché la temperatura dentro, diciamo, è omogenea. E chiaramente questo porta un contributo termico ai fanghi. Quindi è più facile che io possa portare questi fanghi a 39 gradi. 39 gradi è una bella temperatura. A dicembre non è 39 gradi. E quello che manca glielo devo dare, diciamo, normalmente con una caldaia a gas, oppure con un sistema in rigenerazione, in cogenerazione, quindi un grosso cogeneratore. Poi io mi dico queste cose, mi rendo conto un pochino magari, però sono progetti estremamente belli, interessanti, nel quale le tecnologie in qualche modo entrano dentro. E poi oltre a questo entra dentro l'incentivo, chi mi dà i soldi, perché dovrei fare questo? Chi mi paga? E ci si rende conto che da una parte uno produce la corrente, quindi la vende. La vende, esistono i certificati verdi per la corrente, da un'altra parte sto producendo acqua calda, prendo i certificati bianchi, da un'altra parte c'è il Banco della Regione Toscana che mi dà il 20% per questo tipo di opere. Si mette tutto assieme, lavorando tantissimo, e si portano avanti questo tipo di progetti. Sono tutti, diciamo, interessanti. Ora, casomai, se domani, dopodomani ci porta un po' di carta, ve ne faccio vedere anche qualcuno numericamente come perché funzionano questi progetti. Insomma, come tornano anche dal punto di vista finanziario. Poi per quanto riguarda il materiale, insomma, che possiamo vedere, io in effetti ho del materiale piuttosto interessante che vi lascerò. È un po' difficile perché non è un materiale semplice, viene da un master che hanno fatto qui a Pisa, master che ho fatto anch'io, e quindi sono un ottimo riferimento, diciamo, per approfondire, però effettivamente questa è roba che la potete studiare anche da soli, e ve li guardate un pochino, quindi si parla di certificati bianchi, i certificati verdi, l'ESCO e poi il mercato dell'energia elettrica, è un po' quello che mi avevano richiesto. Il mercato, diciamo, è una delle cose più complesse che si possono immaginare, quindi cercherò di darvi qualche elemento di come funziona il mercato dell'energia elettrica, insomma, in Italia. Sono anche istituzioni abbastanza recenti, quindi insomma non tutti i paesi ce l'hanno, ecco. Neanche l'Italia ce l'aveva, è stato un intervento bersaglio con la liberalizzazione in qualche modo del sistema elettrico, e si sono sviluppati questi mercati. Quindi nulla, io vi ho fatto uno scenario per vedere che sono tantissime le cose che possiamo vedere, io non so neanche quale di queste vi interessa, quale volete approfondire, potete anche chiederla, tutte, lo so. Noi normalmente non siamo, io non sono un didatto ovviamente, capite bene, sono una persona esecutiva, quelli che fanno le cose poi. Una turbina di gas per un privato è economica, può essere economica, rigenerazione no. Perché l'investimento di che ordine di grandezza si fa? Non è una questione di investimento, è legata alla tecnologia, perché le turbine, diciamo, che sono state un po' bistrattate, hanno subito un processo per il quale sono nati di enorme dimensione. significa le turbine. Solo Egan sapeva che cosa è fosse una turbina. Quindi i grandi produttori costruivano turbine di 40 mega, 80 mega, 100 mega, quindi ricette molto grossi. Quindi la tecnologia si era specializzata a fare questi apparati enormi per produrre la corrente che noi utilizziamo normalmente. Da lì chiaramente c'è stato un processo che ha portato poi nel tempo a taglie sempre più piccole, sempre più piccole. Però poi di fatto la taglia piccola insomma è stata un mega, sono taglie comunque enormi. E che cosa succede? Succede che andando avanti con la liberalizzazione e tutto il resto è aumentato diciamo anche il mercato delle piccole. Però la più piccola di cui va di notizia è una Capstone, che è comunque 60 kW. E 60 kW non è qualcosa di... è un oggetto neanche tanto grosso. Non sono così, ma insomma non va bene una casa. E poi, immaginate una turbina che gira 40.000 giri a minuto. Ma il rumore non è neanche tantissimo, fa un fischio. Perché non è... i motori fanno molto più rumore, perché i motori sono a 12 cilindri, a 24 cilindri, fanno delle vibrazioni diciamo a bassa frequenza, invece la turbina non vibra. Quando si sta vicino non fa nessuno, non vibra nulla, tutto fermo. Però fa questo fischiettino. Chiaramente ci sono le specifiche, se io compro una turbina, il produttore mi dice a 10 metri questa qui c'ha 20 decibel, devo sapere. Proprio lingua ci sono. E solo per quello che è sconsigliabile per le unità di energia che dà. È troppo grossa. Andrebbe bene, non se ne... è troppo grossa. Cioè, per quello non la vedete in giro, magari domani può succedere di tutto, uno si tira fuori. Un grosso ospedale. Ospedale, le case messe insieme, facciamo un esempio. In detta schiera, esatto. Esatto. Non potrebbero utilizzare la turbina. Potrebbero utilizzare, ma sono cose un po' complesse perché cosa succede? Se io sono un costruttore, noi siamo vicini a molti costruttori, quindi purtroppo queste cose le seguiamo. Che succede? Se il costruttore ha il diritto di costruire 100 abitazioni in un posto X, lui potrebbe essere molto interessato a questa tecnologia, però cosa succede? Che lui deve andare a dire, va bene, io costruisco 100 villette. A questo punto, ognuno fa quello che gli pare, come è sempre stato, oppure il costruttore costituisce una società ad hoc, oppure è lui stesso, e comincia a dire, allora facciamo così, io a queste villette ho deciso di offrire dei servizi. Quali sono i servizi? I servizi sono la corrente, e quindi decido di mettere un campo di pannelli solari lì per fare la corrente, oppure decido di mettere una turbina, oppure un motore. La turbina dà solo elettricità o anche il calore? Soprattutto il calore. Ah, ecco. Cioè soprattutto. Diciamo, la parte ci interessa per il calore, perché faccia l'elettricità è il minimo. Un po' se gira così, deve fare la corrente per forza, sennò che ci facciamo? Anche una cosa c'è. Però qual è il problema? Il problema è che quella società deve decidere di dare a queste villette la corrente e l'acqua calda, quindi deve fare un impianto tanto di riscaldamento di tutto la sostituzione. Deve contabilizzare l'acqua calda e alla fine gli deve mandare una fattura a questi, devi dire guarda, invece tu di pagare la corrente, l'acqua calda che ti paga a te, me li dai a me. Okay? Quindi si trova di colpo comunque a fare un lavoro che non è esattamente il suo. E quindi cioè, alla fine gli piace il progetto, è un progetto che torna economicamente molto bene a lui, torna economicamente molto bene alle villette, ma c'è qualcosa che non torna. L'anno scorso uno di una ESCO di San Giuliano Terme è scappato di 1,5 milioni di euro, mi sembra, per un progetto di teleriscaldamento. Sì, questo qui si vedeva, aveva capito bene che era una ESCO, si è preso tutti i soldi del finanziamento e la gente è stata a San Giuliano a pagare quindi uno da me disse ma noi come dobbiamo fare ci potete e sei sensato lì. Cioè, sensato Riccardo Cervelli so che è uno alto sud, uno alto sì, è quello che ha fatto una lotta tremenda ma quindi si conoscono queste cose no, è mio amico me ne ha parlato tantissimi anni vergognosa vergognosa, sì vergognosa che non è colpa delle ESPO ovviamente. No, certo, truffature, persona. Però è un buon segnale, quando c'è truffatore significa che c'è grasso che cola. È comunque, come vedete, sono un po' difficili a fare questi progetti in condivisione, perché, come dicevo, in quel caso il costruttore c'ha più problemi, poi quando anche la va a vendere quella villa, ma che gli vende a quello? Dice, io ti vendo la villa, però attenzione, la sei comprata, ma qui ci sono una serie di contratti, sì, e il costo dell'energia lo stabilisco io. Insomma, è un po' così. Invece funziona molto meglio nei centri sportivi. Perché? Ce n'è uno appunto a Parma che stiamo seguendo, è un centro sportivo ricchissimo, perché ha 200-300 soci, diciamo, pieni di soldi, che hanno una quota del centro, quindi professionisti, ingegneri del posto, pagano una quota importante e hanno una fetta di questa società, quindi la società è la loro, quindi è tutte queste piscine, palestre, sono tutte loro, non hanno problemi di soldi, e in quel caso qual è il loro problema? Il loro problema diventa solo energetico, perché come si fa a riscaldare migliaia e migliaia di metri cubi di roba? Come si fa a raffrescare? E loro hanno molto, molto interesse. Hanno molto interesse perché è una questione di abitudine, hanno delle palestre che non usano perché sono troppo calde. Quindi non è che vogliono congelarle, li vogliono solo raffrescare. Se loro abbassano 4, 5, 6 gradi, l'ambiente, diciamo... E quindi guadagna di più. E ci vanno. No, questi non guadagnano perché ci sono solo loro. Se fossero i proprietari. Ah, ho capito. Okay. In quel caso cosa succede? In quel caso io ho offerto una turbina Capstone che costa 600 kg. Come funziona? C'è una carta che non vi faccio vedere più bene. Diciamo, una Capstone di 100 kW, quanto si misurano le potenze delle turbine? Si misurano in potenza elettrica, cioè qual è la sua potenza elettrica, la sua capacità elettrica. Se una turbina di 100 kW lavora 8.000 ore equivalenti, sono i 3-4 concetti che vi potrei insegnare, insomma, che sono importanti, significa che se io ho una turbina di 100 kW, in un anno ci sono circa 8.600 ore, no? Se io la tengo accesa solo 1.000 ore, produce solo 1.000 ore, se la tengo accesa 2.000, produce 2.000. Come si fanno i conti? Si fanno in ore equivalenti. Significa che secondo me questa turbina sta accesa sempre, allora produce 8.600 ore equivalenti, poi magari starà fermata 100 ore, 200 ore per manutenzione, ma cosa sì. E quindi insomma, se facciamo un conto, ho 8.000 ore equivalenti, è un conto ragionevole, allora quanti kilowattora produce questa turbina? 8.000 ore per 100 kilowatt e diventano 800.000 kilowattora, che è una bella produzione, capite bene, una bella produzione. Il tipo lo posso mettere in retro come con i pannelli? Sì, si possono fare grilli connessi in rete. Io ho fatto questo per fare tutta questa corrente, però quella stessa turbina in effetti ha anche una potenza termica, che stranamente è la potenza, diciamo, più grossa, perché se lei fa 100 kW di corrente, di potenza, i termici lo fa circa 160 termici. Quindi è strano, dice, c'è una macchina che serve per fare la corrente, però che cosa fa questa macchina? Questa macchina di fatto è di fa soprattutto acqua calda dal punto di vista energetico. Quindi che cosa significa? Qui si capisce anche il significato dei certificati bianchi. Significa che la corrente che utilizziamo noi è fatta da alcuni produttori, per i quali soprattutto Enel, che della capacità, della potenzialità del metano ne sfrutta solo il 30%, di quel 30% che riesce a farci la potente, tutta la parte termica, che ha una quantità di energia spaventosa, e la butta in aria, la manda in aria o la manda di fiumi, addirittura riscaldando fiumi, portando un fiume da una temperatura di un certo tipo, magari da incremento di 4-5 gradi. Allora, sì, ma comunque inquinamento termico, questo no, poi non si entra nei dettagli perché non si può fare diversamente, ma non credo sia una cosa buona. No. Perché ha tutto questo calore che poi è energia. In là, è uno dei motivi. Gli organismi di lei. Cioè, uno dei motivi della forza delle rinnovabili è proprio su questo, su cercare di cambiare queste cose. È quello che deve favorire, cioè quell'acqua calda lì non la può sfruttare. Almeno di queste reti di teleriscaldamento, insomma, sono un grosso problema. Se non posso andare allo Seto, prendere un tubo così grosso di acqua calda e far venire a Pisa. A parte che l'acqua arriva fredda, insomma, ma anche se arrivasse calda, poi che ci faccio quest'anno? Che ci faccio? Dovrei fare un sistema per tutta la città con i tubi che arrivano in casa della gente. Ma noi non siamo nati così. Diversamente dagli americani, per esempio. Se voi vedete, se avete mai fatto caso nei film americani sugli sviluppi di vapore, sempre, no? Perché loro hanno una città che è nata col teleriscaldamento. Quindi chi l'ha costruita, chi l'ha pensata, ha detto, oh, io mangio, qui ci sono le centrali, faremo tutta questa acqua calda, portiamola lì. Quindi l'americano apre, esce l'acqua calda cittadina, non c'è la calda per scaldare l'acqua. È una cosa un po' più intelligente, ma noi non potremmo più farla. Cioè. Non è pensabile. E poi anche perché dipende da dove sono le centrali, no? Sono messe lontano, la cosa non funziona. In questo caso cosa fa lo Stato per cercare di dare una spinta, diciamo, alla risoluzione di un problema del genere? E definisce una di queste tipologie di certificati bianchi, sono due tipologie, che sono un modo dello Stato per cercare di far sfruttare meglio l'energia. Cosa significa? Se io invece di comprarmi la corrente da Enel, che la sta producendo con questo criterio, significa che il 30% lo usa e il 50-60% lo butta, e mi faccio una turbina in casa o nella mia piccola azienda, quando si muore grossa, che cosa succede? Succede che io di quel gas il 30% ci faccio la corrente, l'altro 50-60%, quello che sarà, lo utilizzo termicamente, quindi ho un'efficienza mostruosa rispetto a me. Lo Stato mi premia, ma non perché faccio la corrente, mi premia perché utilizzo la pagata. Non so se si capisce. E questo, diciamo, uno dei motivi come è nato il meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi. E i certificati bianchi li possono trattare solo le ESCO. Ecco perché sono diventate così importanti le ESCO. Perché le ESCO si interessano di turbine, per questo motivo qui. Diciamo, forse è meglio che vi introduco un concetto che è importante, che vi aiuterà forse a capire un po' meglio questa storia dei certificati. Allora, cercate di capire come sono nati i certificati, perché qualcuno ha voluto creare i certificati. Quindi i certificati, diciamo, sono di tre tipi. Ci sono i certificati verdi, i certificati bianchi, che a loro volta sono di due tipi, ma insomma lasciamo perdere, quindi verdi, bianchi e grigi. E anche da colori un pochino si capisce già di che si parla. Verdi sono quelli legati alla produzione di energia rinnovabile. I bianchi sono quelli legati all'efficienza o al risparmio, ok? Bianchi. E i grigi sono quelli, diciamo, invece legati all'inquinamento. Okay. Chi ha creato questo sistema, diciamo, in effetti sono stati italiani che hanno il sistema certificato bianco. Un sistema che ha funzionato molto bene e è stato anche esportato all'estero, stranamente, diciamo. Facciamo ridere però per certe cose delle volte ogni tanto, facciamo delle cose molto buone. Quindi lo stanno studiando gli inglesi, gli americani, perché vogliono attuare. Come si fa a creare un sistema del genere? Si fa così. Che quando riguarda i certificati verdi, ok, si dice che c'è io. Esistono dei grandi produttori di energia elettrica in Italia. Abbiamo sempre usato la parola Enel, però poi non è solo Enel, ce ne saranno, ci sono dei grandi produttori. Enel è uno di quelli più importanti, Enel produzione. E io gli dico a questi signori, come sta, gli dico, guardate, facciamo una cosa che è fatta così. Te sei un grande produttore, mi devi produrre il 10% di energia con le rinnovabili. produci 100 e il 10%, il 10 deve essere fatto da rinnovabili. Ok? Ti faccio una regolina che ti impone questo sistema. Ecco, tra l'altro, diciamo, la regola è fatta. Come funziona? Funziona che se tu non obbedisci a questa regola, paghi una multa che è grossa così. E questo è il trucco, l'ingegno di questa cosa. Quindi, se la multa vale 1 milione di euro, io so anche quanto vale quella riduzione energetica. Non so se si capisce. Cioè, come si fa a passare i soldi? E se io ti dico ti faccio una multa, non è che va adesso, ti faccio una multa, ti faccio una sanzione. E la sanzione è talmente grande che è proporzionale a quello che è la tua produzione. Se io sono un grandissimo produttore mi fai una multa grandissima, se sono un piccolo produttore la fai più piccola. Ok? A questo punto si è capito che era un valore fare questa cosa, perché se non c'è la multa, quindi si la rende, si mette a mettere le fotovoltaici, ma perché se non c'è la multa? Ok? Il passaggio successivo che crea il mercato invece è un altro passaggio sempre intelligente, che dice, ma io ti dico una cosa, dice lo Stato, io ora tu sei uno che fa la corrente, non si interessa dei rinnovabili, non ti voglio obbligare a metterti a produrre energie rinnovabili, sei uno che la fa con petrolio, la corrente, non è il suo lavoro farla con i rinnovabili, no? Allora gli dico a quello lì, dico guarda, tu invece di produrla tu questa energia, va bene anche se la fai produrre un altro, ok? L'altro la produce, acquista un titolo e Enel si compra quel titolo. È un po' come il CDM, diciamo, che è sempre lo stesso giochino, che dovete cercare di capire perché non è difficile. Significa che il valore dei certificati verdi compensa il valore della multa, questo crea il mercato. Io, per esempio, non c'entra nulla con loro, non sono un produttore. Metto una pala eolica qui, produco un sacco di corrente di energia rinnovabile e c'è lo Stato che dice, ah, il prodotto di questa energia mi dà un pezzo di latte e dice, questo è un certificato verde. Ma io che ci faccio questo certificato verde? A chi lo do? Lo darò a un produttore che lui è interessato. Invece di produrla lui, che non c'ha tempo, testa di fare quel lavoro lì, si compra il mio certificato. E questo crea un oggetto che si chiama mercato dei certificati verdi, che è una cosa interessantissima. Significa che le pare che vedete alcune idee sono pagate dei certificati verdi. L'idroelettrico ha pagato dei certificati verdi, in grandi parti fotovoltaici. Quindi è una stratagemma, lo Stato che cosa fa? Non ha cacciato una lira e ha obbligato alcuni personaggi a creare questo mercato. È giusto che lo vedi, che sia loro, cioè, se lo Stato viene da me e mi dice guarda tu devi fare del bene per produrre con le rinnovabili, io sono un privato, ma che c'entra con le rinnovabili, io con l'energia? Chi è che è coinvolto dall'energia? Il grande produttore. Quindi noi lo obblighiamo a differenziare la sua produzione. Questo significa che Enel si è comprato in pezzo, producono pale eoliche, si sono comprate le società che fanno le rinnovabili, perché questo meccanismo è un meccanismo virtuoso che ben funziona con alcuni limiti, poi li abbiamo casomai. In Endesa fa il pale della rondina? Sì. Ah. È catalana, no? Sì. Può stare molto molto molto in gamba gli spagnoli. Praticamente la leadership ce l'avevano i danesi, sì, la rimarca ce l'aveva. Hanno cominciato a vendere un sacco di pale eoliche in Spagna, prima di vendere in Spagna. I spagnoli hanno detto lo Stato, ha detto, prima tutto, infatti io li voglio anche far vendere tutte queste pale eoliche, però fai una società nuova qui, collegata con la tua, che nell'arco di 8 anni diventa indipendente. E l'hanno fatto. Hanno messo il sacco di pari, danesi contenti, spagnoli contenti, e poi gli italiani sono andati all'ultima, se la sono comprati, insomma, perché è una grande forza internazionale. grazie ai soldi nostri. È tutto un altro argomento, ma piuttosto penoso. E questi sono i certificati verdi, ok? I certificati bianchi invece, che pure sono molto interessanti invece, sono legati a un utilizzo efficiente dell'energia, quindi il discorso delle turbine, a un utilizzo efficiente dell'energia o al risparmio energetico, quindi le luci che facevi vedere prima, no? Il risparmio, significa che ho queste luci, che consumo questo, se li cambio posso consumare di meno. Quindi ho fatto un'azione buona che è di tipo di risparmio energetico. C'è un motore che consuma troppo, lo butto, ne prendo uno che consuma di meno. Ho fatto risparmio energetico. In questo caso, sono stati introdotti questi certificati bianchi con un concetto similare. Però chi è il soggetto che lo Stato poteva colpire in quel caso? Nel caso dei certificati verdi ha colpito il distributore, cioè il produttore, il grande produttore. Nel caso dei certificati bianchi ha colpito il distributore. Il distributore chi è? Il distributore è quello che gestisce la rete elettrica, ci porta la potenza in casa. Il distributore è anche quello del gas, è quello che gestisce la rete del gas, poi viene da me e dice mi devi dare 200 euro che ti ho portato il gas, quello è il distributore. Perché ha colpito l'oro? Perché loro, diversamente dal produttore, hanno una, sono radicati nel territorio. Significa che hanno milioni di clienti. Hanno milioni di clienti e quindi hanno una presenza territoriale tale da poter operare nella riduzione, diciamo, nel miglioramento della tecnologia. Tant'è vero che vi dovreste ricordare che avete visto, diciamo, riparare lampadine. Ma come mai sta dicendo di riparare lampadine? Perché non mi impazzito. C'è tutto un motivo, poi c'è tutta una truffa sotto, tutto il giro che all'italiana, che è una cosa terribile. Però perché regalavano le lampadine? Perché? Perché 100 lampadine di quelle corrispondono a un certificato bianco. Il certificato bianco, come i certificati verdi, sono un titolo produttivo. Se io ho questo certificato, e questo ogni anno questo oggetto mi produce dei soldi. Ok? In quel caso chi era interessato? Erano interessati i distributori, quindi era proprio in distribuzione, che veniva da te e diceva ma mi fai il contratto di qua di là, oppure tu ti regalavo una lampadina. No, dall'altra parte c'era una lista, scrivevano tutti i nomi, dicevano gli ho dato 3 lampadine Andreoli, 7 a quest'altro, cose, dimostravano che avevano distribuito tutto questo numero di cose e stanno ancora prendendo i soldi per una quindicina di anni di questa attività. Visto che se la semplice poi bastava truccare queste liste e queste lampadine, chi aveva un filo dalle altre parti te le vendevi, no? Quindi è chiaro che hanno fatto quello. Cioè, ha finito comunque ora questo meccanismo. Oltre a quello però non l'hanno fatto solo loro, l'hanno fatto anche alcuni comuni. Perché alcuni comuni, diciamo, un po' più svegli, più vispi, che magari all'interno delle figure tecniche che conoscevano questi mercati, questi meccanismi, alcuni importanti comuni si sono trasformati in ESCO. Era ovvio, io sono un comune, ho dei consumi della Madonna, perché non sfruttare questa possibilità di fare gli interventi per prendere dei soldi? Che mi dà lo Stato, che mi dà il mercato dei certificati bianchi. In quel caso allora era il comune stesso che faceva il business, perché mi compro un treno di queste lampadine, poiché sono un treno li pago poco, li regalo. Poiché li regalo sto creando un indotto di comunicazione di quello che voglio io, dice vieni qua, vado nella lampadina, insomma, via dicendo, però di fatto loro acquistavano un diritto con i certificati bianchi. Forse sono state abolite le lampadine normali, questa questione è finita. Però per questo è per dire solo che i certificati bianchi sono un grande business e io sicuramente preparerò perché anche noi siamo una ESCO, quindi siamo soggetti che possono prendere i soldi dai certificati bianchi. Esistono delle liste gli oggetti standard, standardizzati, i certificati bianchi. Un certificato bianco dovrebbe corrispondere circa, diciamo, al risparmio di una tonnellata di un tetto, di una tonnellata di equivalente di petrolio. Significa che 100 lampadine di quelle in un anno risparmiano una tonnellata di petrolio. Non è poco. Cioè, la tonnellata di petrolio non viene bruciata perché ho messo 100 lampadine. Chi ha fatto questa buona azione si prende questi soldi. Va bene? Da dove vengono i soldi, l'abbiamo capito, vengono dai distributori. Perché se non loro, hanno la loro multa che dà valore a questi certificati bianchi. E sono tanti altri di sistemi di risparmio. Quindi quelli standardizzati sono le lampadine, perché è semplice, ogni lampadina si sa bene quello che fa. Invece di produce 80 watt, per i consumatori, come dicevi te, quello che sarà, si sa quanto risparmio. Poi esistono i motori, esistono una quantità mostruosa di motori in Cina, in Italia, molti sono delle pompe, sono motori che servono per tirare l'acqua, per annaffiare, esistono tantissimi, sono motori obsoleti, vecchi, consumano tanto e producono poco. Poi ci hanno tanti altri problemi, non sono motori controllati elettronicamente, hanno problemi di spunta e via dicendo. Lì c'è proprio una normativa specifica che ti dice te sostituisci quel motore con un altro e io ti do il certificato bianco. Poi il motore do il certificato. Certificati bianchi, quelli che sono questioni di fantasia, di via incapaci di dimostrare. Tipo certificati bianchi, uno che fa la copertura qui, dimostra che ha fatto una copertura, fa una certificazione energetica prima, una doccia, io sto risparmiando tutta questa energia. Lo possono prendere le aziende, le industrie che fanno dei progetti di risparmio. Io sono un'industria produttiva, consumo 1 milione di euro di corrente l'anno, faccio un progetto articolato, complesso, sostituisco questo scambiatore, faccio questa linea, innalzo la temperatura, la basso, quello devo fare. Dimostro che io ho fatto questo intervento, che mi è costato anche una cifra, mando tutta la documentazione a Enea, Enea c'è un esperto della legge che ci vuole bene, e mi danno i certificati bianchi. Ma dicevi che sono le ESCO le uniche che possono attaccare, quindi sì. Io se ho il capannone devo passare alla ESCO per dirti... ESCO e i distributori. I distributori e l'ESCO, okay. E soprattutto i distributori. Insomma, ora spendiamo una cosa, poi queste cose io vado a ruota libera, poi ve le dirò, quando c'è la carta, casomai... Domani li portiamo alla mano, diciamo che guardiamo un po' meglio. Vediamo un po' che cosa è una ESCO, diciamo in maniera semplice. Tanto le ESCO non sono delle società, sono una consuetudine. Significa che sono nate in America in maniera... significativa, ma già 20-30 anni fa. Quindi gli americani la cominciano a dire, ma noi ci vogliono delle formule che ci fanno entrare il capitale privato per fare degli interventi nell'industria, hanno avuto sempre una certa sensibilità, diciamo, a questa cosa, quindi sono nati lì. Noi non ce ne poteva fregare di meno, noi italiani, ma anche in Europa, tutto sommato, insomma, mai fatte queste cose qui. Però abbiamo capito poi piano piano quello che facevano loro, è stato cominciato a fare, si è cominciato a fare anche in Italia, senza norme, senza nulla. Quindi alla fine era un modo di concepire la relazione tra le parti, un modo di fare i contratti. Dopo di questo un pochino è stata normata la cosa, ma insomma, a maniera blanda, non esiste oggi il meccanismo dove io vado, perché tipo ma c'è uno statuto della ESCO, cosa fa la ESCO, è un po' fumosa la cosa, no? Non si sa, non si capisce. È un modo di operare, una cultura più che altro, che si traduce in certi meccanismi. L'autorità dell'energia, l'autority, diciamo, è il nostro organismo di massima competenza per le questioni energetiche, ha scritto delle righe che sono fumosissime, le ho lette 50 volte perché prima dovevamo fare questa ESCO, dovevamo cercare di capire che volevano questi qui. E c'è semplicemente scritto che per essere una ESCO, nella ragione sociale c'è lo statuto, all'interno dello statuto della società, oltre a tutte le cose che ci sono, c'è scritto che questa società fa degli interventi per risolvere la sciocchezza di questo tipo. Che cosa significa? Perché hanno fatto una cosa così sciocca? Perché non erano in grado di definire una società costituita affinché fosse una ESCO. Allora ho detto, guardate, per noi l'ESCO può essere chiunque, anche uno che vende scarpe. Vende le scarpe, va lì dal commercialista, cambia questa scrittina e gli apre l'ESCO. Quindi l'ESCO sono tutte e non sono niente. Ok? Perché l'hanno fatto? Perché se il calzaturificio X a un certo punto faceva un intervento energetico a casa sua, uno gli avrebbe potuto dire sì, hai fatto questo intervento, potresti avere il diritto a questi certificati, però non li prendi. Come li faccio a prendere? Modifica lo statuto con questa parola, quindi tu fai le scarpe, fai altre cose e fai anche risparmio energetico. E lui è diventato adesso. E questa è la situazione. Questo è per dire tutti sono ESCO e nessuno. Nel mio caso della CPT è un attimino diverso, perché noi siamo proprio, quando l'abbiamo costituita siamo andati lì con la parolina, non cambia nulla. Avevamo in testa di fare questo business. E quindi il nostro lavoro si cerca di fare. E così. Quindi oggi cosa significa ESCO? Significa nulla. Tant'è vero che l'autore dell'energia pubblica una lista dell'ESCO. Che lo faccio sul prodotto ESCO. O magari viene utilizzato per mandare il curriculum a qualcuno. C'ha voglia di lavorare, si trova tutte le ESCO, le contatti e li manda il curriculum. Cioè che lavora con l'energia. Però cosa succede? Essendo che erano tantissime, l'autorità non si voleva neanche rompere le scatole, anzi testa lista, ha messo una cosa, facciamo così. Noi nella nostra lista mettiamo solo quelli che almeno hanno preso un certificato, almeno uno. E chi sono mai? Quando ti faccio l'ESCO, non è che sta ESCO è un posto dove sono registrate, perché si fanno delle attività, perché ci sono delle regole, non c'è nulla. Solo con questa piccola modifica si possono prendere dei certificati. Ora non è un grosso problema, noi cosa significa? Come ESCO, se io faccio un intervento energetico verso uno, e a discrezione mia, se gli voglio parlare di certificati bianchi, sostanzialmente non gliene parlo. Ti dico quest'opera costa tot, io te la faccio e il diritto me lo tengo per me. Non so se soddisfico il diritto del certificato, lui neanche sa che sono certificati bianchi, li prendo io, che ho fatto l'opera. E quindi esiste anche questa cosa un po' curiosa. E poi diciamo, casomai parleremo un po' più giustamente quali sono le attività delle est. Io insomma, direi che sono due grossi filoni. Un filone di tipo finanziario, quindi significa che io sono una grande società, ho un grande numero di capitali e vado a fare degli interventi a spese mie verso gli altri. E vado lì e dico, ma guarda, ma tu hai una situazione nella quale in tanto potresti fare delle opere per consumare di meno, cioè c'è uno che consuma la butta via l'energia, c'è uno che c'è un tubo bucato e butta via l'acqua, proprio così. Allora io posso dire, io sono un ESCO, vado e dico, guarda, facciamo una roba, io su questo tubo te lo aggiusto io, ma gratis, ok? Ti faccio un intervento, ti metto una turbina, ti faccio il tetto, qualsiasi cosa, faccio un soldo di meno. E poi però, e questa è la forza dell'ESCO, ho tutti dei meccanismi che mi fanno ritornare i soldi. Se te prima consumavi 100, prima del mio intervento, e dopo il mio intervento tu consumi 50, io ti ho portato un beneficio a te, di 50. Allora su questo beneficio facciamo un accordo. Prima consumavi 100, poi facciamo che consumi 80, e 30 mi dirà a me, per 20 anni. E queste sono le formule che potrà fare l'ESCO, quindi l'ESCO trova questa abilità di mettersi in mezzo. Quindi l'ESCO può andare dal comune di Pisa e dire, guarda, qui ci c'hai 300 lampioni che consumano un sacco di energia. Io vengo, faccio un investimento come società, o ce li ho io i soldi, o addirittura me li vado a cercare. Vado a trovare una banca, faccio un progetto di finanza, come si chiamano, con diverse formule, e ti faccio questo lavoro. Tanto la tua bolletta, del tuo contatore di questi lampioni, noi la conosciamo, ce l'abbiamo, è lì. Se c'è scritto che in un anno il Comune di Pisa consuma 300.000 euro di corrente per i lampioni, sono 300.000 euro, ce n'è da fare, sono quelli. Se ho fatto un intervento che poi ne consuma 200.000, voglio dire, ci sono 100.000 euro in ballo da dividersi, con qualche criterio, il criterio stabilisce la ESCO. Ti potrebbe dire, guarda te, continua a pagare la corrente come prima, io mi ripio tutti i soldi che ho tirato fuori e poi ci faccio il mio business e poi fra 8 anni te lo fai te il business. Oppure condividiamolo, un po' a te, un po' a me e un po' alla banca. Chiaramente in questo percorso si dà priorità alla banca. Cosa significa? O al finanziatore, significa che la ESCO non guadagna per l'intervento che ha fatto, ma guadagna sul risparmio e quindi si assume il rischio del risparmio. Cioè, se io, ingegnere del caso, ho detto che lui risparmia chissà cosa e poi non lo risparmia, non è che ce li mette la banca, ce li metto io. Io come società non ha funzionato nulla più, le lampadine a neon le abbiamo messe, è una fesseria, consumano più di vent'anni, e ce li metto io. E quindi noi guadagniamo, diciamo, sul risparmio, dando priorità alla restituzione del capitale. Mi sembra anche ragionevole, no? Sono fuori i soldi, vuole prendersi i suoi soldi. Quindi questo è un esempio di operazione dell'ESCO. Come vedete, la portano a operare con gli enti, diciamo, abbastanza, ma non solo con gli enti, sono le strutture del caso. Ovviamente, nel momento nel quale una ESCO non è una banca, perché una ESCO non è una banca, se no, voglio dire, noi molto spesso si fa casino, mettiamo degli ostacoli su questo, perché quello l'altro si pensa, tu c'hai un portafoglio pieno così, e vai lì e fai intervento e puoi guadagnarci. In quel caso sarebbe investitore, sarebbe un altro oggetto. Ma ecco, tendenzialmente può avercene una legge, se ce l'ha pochini i soldi, gli va a chiedere a un altro, va a chiedere a un istituto. Allora che cosa gli va a chiedere questo istituto? Gli va a dire, guarda che qui c'è un progetto da fare, che è un grosso business, perché mettiamo questi soldi, non rischiamo nulla, o poco, e recuperiamo tutti questi soldi, è un bel business, però non è così facile in Italia, perché chiaramente ci vuole una cultura che in Italia non c'è. Quindi significa che una cosa è conoscere una banca che ha già progettato, finanziato oggetti del genere, quindi all'interno ha una competenza tecnica che la guarda, il progetto dice sì, ma questo è un buon progetto, lo facciamo. E l'altra parte sì, c'è una banca che dice ma che è la ESCO, ma che sono i certificati bianchi, ma che risparmio, ma che dici? E ti dice dove sono le fideiussioni, dove sono gli immobili, la caparra, la cosa. Chiaramente questi progetti si devono fare, o si va verso quei due o tre istituti che hanno questa sensibilità che invece hanno molto di più tedeschi, questi progetti sono più nei giorni, americani stessi, ma gli italiani no, molto di meno, diciamo, il rapporto delle banche non è mai stato, questo non è terribile, però insomma, non è mai stato particolarmente buono. Questo tipo di sistema tende a frenare questo tipo di attività, quindi non è che ci siano tutti questi sviluppi dell'ESCO. Qualcuno li fa, certamente li fa chi ha una certa sicurezza di una relazione finanziaria con qualcuno che si fida a mettere dei soldi a fare delle cose. Sono delle cose magnifiche, perché potete immaginare sostituire un lampione. Oggi ci sono delle lampade, noi siamo distributori di un brevetto canadese, di certe lampade a induzione elettromagnetica, una cosa incredibile, durano 100.000 ore una lampada. cosa anche più di me, e consuma il 40% di una lampada normale, costa uno studio, costa 2.000 euro una lampada del genere. Però cambia il modo di vedere le cose, io metto una lampada che dura 100.000 ore, vedete bene 100.000 ore, sono 10 anni, scompare la manutenzione. Vado da quel comune, siamo andati in comune, non abbiamo potuto fare perché c'era uno che diceva no, scusa, io ho due letto da mangiare, dico la scaletta e poi andiamo a casa. Inquinamento magnetico, no? Delle poi? Inquinamento magnetico, l'inquinamento magnetico. E basso? Com'è? Sì, è confermato. Basso, non so di preciso, ma non esiste proprio. Ah. Era più grosso il problema di quello, era coniato di quell'altro, quindi continuava a mettere solo le lampadine, quindi mi venivano a cambiare. È la cosa italiana, è un attimo, questo è come si fa, non si fanno questi progetti. Comunque da parte sua, uno che non è può andare a Napoli, ci danno i soldi, non li danno a nessuno, sono tutti messi in una certa maniera, la banca, neanche meno che la banca ci maggiore. Non capisco neanche di che parli. Quindi alla fine non è così facile fare questi interventi che hanno un grosso, evidente, diciamo, tornaconto economico per tutti, però poi bisogna mettere insieme tutti questi attori. E qua da una parte ci sono i soldi, la fiducia, da una parte c'è la tecnologia, da un'altra parte c'è il consumo e via dicendo. Quindi noi insomma non li stiamo sviluppando particolarmente questo momento. Siamo un po' più attenti ai certificati bianchi, perché è chiaro che se viene uno da me e dice voglio la turbina e mi conviene la turbina e io sono contento parecchio, perché ho la turbina e mi tengo anche i certificati bianchi. Quindi la ESCO, anche quando opera in questa maniera, è un po', diciamo, il fatto che esista il certificato la porta a operare anche senza guadagno. Cioè io potrei fare un intervento nel quale non ci guadagno nulla, formalmente. Ripetino, mi piglio proprio nulla. Ti faccio un intervento fatto bene, però non ne voglio soldi di margine. Perché ho altre tutele, perché ho questo certificato che per 12 anni vi darà una renta. Quindi come società sono più contento che tu mi dai 12 anni di soldi che non mi dai 100.000 euro ora. Fa molto più... ci piace molto di più. Si ragiona meglio con il budget. Ma si ragiona meglio con tutti, guardi il futuro, cioè ti dà sicurezza, quindi sono meccanismi belli, ci piacciono molto. E quindi si fa questo tipo di cose. Chiaramente capite pure che la ESCO, proprio per questo meccanismo che c'è dietro, tende anche ad avvicinarsi a quella che è la gestione della tecnologia, la manutenzione, la gestione. Cioè mi viene di dirti a te cliente, dico guarda, fai questa roba, io non voglio guadagnarci nulla, però magari questa tecnologia te la mantengo io per 10 anni, per 15 anni. Quindi faccio un business sulla tecnologia, sul bel mantenimento e faccio qui stesso un certificato di bianchi. Quindi alla fine l'opera costa il meno possibile e i guadagni della ESCO, invece di essere lì, sono insieme al cliente, lo seguono. Gli danno assistenza, i contratti calore, non so se ne avete mai sentito parlare. E sono tutte cose molto vicine all'ESCO. Non so se si capisce qualcosa, io vado forse un po' di luce. Non è il mio lavoro fare questa cosa. Una turbina a 100 kW? Una turbina a 100 kW costa, come le... una turbec diciamo, costa 120.000 euro la turbina, con lo scambiatore. Poi costa circa, mi sembra, 28.000 euro la parte di trigenerazione. Se uno la vuole mettere, sono modulari questi turbini, se ne possono mettere più di uno. 8.000 euro il quadro elettrico, 15.000 euro il montaggio, e poi il contratto di manutenzione costa 2,5 euro l'ora di funzionamento. Quindi significa che il produttore mi dice, tu mi dai a me 2 ore e mezzo l'ora e questa turbina funziona da sempre. Se si rompe dentro la cambio, problemi zero. La cambio, se non c'è un po' di 2 euro e mezzo l'ora, capisco, con 8.000, 2008, 16, 20.000 euro l'anno, però ce la garantisce, però 8 anni, 10 anni. Non so, adesso un pezzettino a casa. Adesso un pezzettino a casa. Proprio gas, se uno fa il tuo gas, allora... Questo ha pensato. È un grande business. Ah, perché te fai i livelli? Particolare è... Io no, però, insomma. Quelle che vi ho indicato sono quelle di leader del mercato, la Turbe e la Capstone. La Capstone è veramente esagerata. Capstone. Capstone. Ah, Capstone. E l'altra? Turbe. Turbe. Io conosco i commerciali, la Turbe è chiaramente proprio. La Turbe è italiana. La Capstone è leader di mercato, cioè 70% di installazione in Italia. Una turbina che fa una cosa molto molto particolare, che non fa la turbec, perciò costa di più, piace di più, è in lievitazione, cioè noi abbiamo un oggetto che gira 40.000 giri, no? Quando è ferma, l'asse è poggiato sulle cuscinetti, quando comincia a girare viene messa in funzione elettricamente, non è parte da sola la turbina, cioè l'elettricità che la mette a regime prima che parte, diciamo, il meccanismo. C'ha una sagoma delle parti, una aerodinamica tale che si solleva arrivata circa a 15-20.000 giri, quindi non tocca più nulla. Però non nasce. Sì, vola. Vola, quindi questo gli comporta di non avere consumo di olio, che invece è un elemento un po' critico, questa cosa gira, non c'è più. E la noia solo in questo caso la partenza, l'avvio, non vorrebbe che dice no, stamattina accendo la turbina, stasera la spengo. È proprio un affare di questo tipo qui, ma a me la turbina ci sta per anni. Io ho visto ora, diciamo, stiamo seguendo un progetto alla ICP, non so se la conoscete, sono le cartiera Perretti, uno dei più grandi di Lucca Marlia. Questo signore fa la carta, è un leader mondiale, quasi la produzione del 70% in Europa di questa carta, cosa spazzista. Peretti. C'è anche la carta igienica per il rotolo che sta dentro, la carta igienica, perché rotolo strano fatto così, loro fanno quella carta lì. Ma non sono neanche visto questi macchinari, diciamo, e sono dei libri in assoluto. Loro hanno, perché hanno una turbina? Loro hanno una turbina ciclopica e ne stanno installando un'altra. Perché oltre ad avere un consumo, mi sembra, di 3 milioni di euro di corrente per mandare loro le macchine l'anno, hanno una grande necessità di acqua calda nel processo produttivo. E quindi hanno una turbina di 7 mega, che è un oggetto veramente enorme. Una turbina di 7 mega, e ce n'è una di 5, dico una fesseria, e ne stanno installando una di 7. Facendo in questa maniera, il costo dell'energia elettrica loro si è abbassato a 7 centesimi. Quindi invece di comprarla da Enel a un prezzo di questo tipo, io me la faccio la corrente. E lui la paga 7 centesimi, il suo costo finale è 7 centesimi. È talmente potente come produttore di energia, questo qui che lavora in isola. Significa che non la vede poco Enel. Perché Enel non gli... 7 centesimi a? A kilowattora. Enel non era in grado di, diciamo, di garantirgli una tale potenza, quella che serviva a lui, con una tale continuità. Perché cioè, sono macchine che anche dal punto di vista del reattivo, lui chiaramente c'era una spinta esageratissima. Quindi la corrente isola significa che la corrente non esce. Cioè lui c'ha la turbina e la turbina manda le sue macchine. E ancora non riesco a far capire che è una turbina da 5 mega. Facciamo conto che è due volte questo ambiente qui, come situazione altissima e velocissima per l'esagerazione. Va bene. Ok. Altre domande, non so. Sì, le pompe di calore. Le pompe di calore. Mi interessano le pompe di calore. Sì. Ah, io non è che ne sappia tantissimo. Non so come funziona. Il copper, qualcosa di genere. Il principio, l'efficienza, a chi può essere... A chi interessa? A chi può essere economico. Sempre, noi... sempre, diciamo, cioè, nell'ambito di un privato, diciamo. Che cosa può essere economico? Assolutamente. Ora io non sono un esperto di pompe di calore, però, diciamo, noi abbiamo offerte in abbinamento con geotermico. Quindi, diciamo... ho fatto qualche progettino di cose su CO2. Comunque c'è geotermico, quindi già ha una certa... No, no, no, perché domestico. Domestico. Sì, però in zone già favorevoli, cioè, no, no, c'è un, sono un pianeta di diversi. Sì, quello lì si chiama, diciamo, l'Andrea è un caso unico, che fa testo. E lì vanno a vedere i vapori sottoterra, è un'altra cosa. Il geotermico nel domestico, molto molto utilizzato nei paesi, in Svizzera per esempio, in Germania, noi siamo indietro a tutto, che queste tecnologie sono state parecchio indietro. Significa semplicemente che io utilizzo il terreno che c'è come una fonte energetica. Sembra un po' strano, dici, ma come il terreno, come si fa? E invece funzionano molto bene, quindi esistono diciamo tre meccanismi per la geotermia casalinga, così insomma. Una è quella di diffusa, quindi significa che io prendo un pezzo di terra, ci passo dei tubi sotto, a circa 50 centimetri. Non è nulla di che, c'è un buco per questi tubi e li copro tutto. Sotto il fondamento? No, no, un campo, terra. Un campo. Questo diciamo è un sistema. E sono gli scambiatori che vengono utilizzati normalmente quando si utilizzano gli affrescamenti e riscaldamenti a pavimento. Ok? Quindi sono, ben si sposano con la tecnologia. Quindi, cercare di far capire perché. Non so. E quindi questa è una tipologia. La seconda tipologia invece col pozzo di profondità, quindi io non ho spazio, ho un giardino, ma arriva una trivella, mi fa un buco, farà 50, massimo 100 metri, entra un tubo che arriva fin giù e poi ritorna su questo tubo. E pesca. E no, non è che pesca, è uno scambiatore. E poi pesca calore. Scambia calore. Scambia, sì. O lo assorbe o lo ceve, e quindi lo gioco la punta. E poi esiste un altro sistema, che è quello che costa di meno, per chi ha la fortuna, che è uno scambiatore ad acqua. Significa che io sotto casa mia ho un pozzo, e allora sfrutto quella temperatura lì. Quindi ho un pozzo solo, ci tiro l'acqua dentro, quest'acqua o la raffreddo o la riscaldo, vediamo come, e poi la butto fuori. Oppure ho due pozzi, uno di immissione e uno di emissione. Sì, estremamente, sono cose vendibilissime, costano poco, non c'è nulla di strano. Come funziona? Io di farvi capire. Intanto la pompa di calore è un oggetto che semplicemente, diciamo, è capace di fare tutte e due le cose, il ciclo frigorifero e il ciclo di riscaldamento. Significa che c'è un circuito di ingresso e un circuito di uscita. Lui è capace di assorbire calore qua dentro, ok? Perché poi è agosto, quindi assorbe il calore qua dentro, bene, fa caldo, io voglio stare fresco, assorbe il calore, e lo butta fuori dall'altra parte. Questa è una pompa di calore. Sono quelle ventole che vedete ogni tanto. Ora che cosa succede? Se è agosto io voglio buttare fuori del calore da qui a lì, la ventola fuori, già di suo sta a 30 gradi perché è agosto. Poi io prendo e ci butto fuori la roba, è da 60-70 gradi, e non funziona male. Ci devo mettere un motore che muove la fredda. Se io invece avessi un circuito dell'acqua che va a 100 metri dove l'acqua è 17 gradi, dove è ogni anno, chiaramente lo scambio è magnifico. Costa poco, non c'è più bisogno di questa vendita. Questo è vero, tanto se sto buttando del calore fuori, e tanto se lo sto buttando. Quindi che cosa voglio dalla geotermia? A me la geotermia serve solo perché voglio una temperatura di riferimento costante. Io so che lì sotto ci sono 17 gradi a una certa profondità e ci sono l'inverno e l'estate. L'inverno mi fanno comodo perché sono uno strumento che è capace di pigliarsi addirittura del calore da lì. E l'estate faccio il contrario. Quello invece distribuito nel campo chiaramente non ha la facoltà di andare a una profondità dove la temperatura è costante, però funziona bene lo stesso, funziona meglio della mente, perché comunque un campo, anche se è agosto, se io scendo un metro sottoterra è più fresco, è molto più fresco, e dentro ci passa un circuito di acqua o di un'altra sostanza, di un gas a circuito chiuso, che semplicemente va lì prende della calore e lo butta nella terra. È molto interessante. Non è che faccia chissà cosa, quindi in effetti anche il costo di questa tecnologia è ridicola. Sì, c'è la pompa di calore e poi il tubo. Che fa? Pentino. La cosa è banalissima, c'è una pala meccanica che fa lo scavo. Vi do anche un ordine di idea della dimensione. Per un appartamento di 100 metri quadri ci vogliono circa 300 metri a terra. Linea, insomma, metri quadrati per dare soddisfazione a questo sistema. Dal punto di vista del riscaldamento, cosa succede? Si usano quelli a pavimento perché? Perché io non è che ho facilità in un sistema che mi manda l'acqua a 60-70 gradi su un termosifone. È molto più facile per me mandarla a 40. Ma se io mando l'acqua a 40 in un termosifone, a 30, quello che sia, non si scalda. Allora ho bisogno di enormi ambienti radianti. In questo caso, il guadagno energetico è spettacolare. Queste pompe sono caratterizzate da un parametro molto semplice, si chiama COF, mi sembra. Significa che il loro rapporto fra il COF è anche quell'elemento che quantizza la onda della pompa. Significa che se io ho una pompa che ha un coefficiente di 3, significa che io gli do un kilowatt elettrico, glielo do io, a spese mie, e lei mi produce 3 kilowatt termici. E quindi è come se fosse una magia per scegliere aspetti. Io ho un kilowatt di energia che me ne dai 3, come fai? Un po' di calore fa questo miracolo. È uno scambiatore, va lì, si piglia il calore e glielo tira fuori, no? Insomma, ma non è un frigorifero, non è mica, si capisce che è una cosa particolare, no? Te qui c'hai 20 gradi e del frigorifero è il frigorifero a freddo. Come fa? Riesce a sottrarre il calore da te, te lo butta fuori. Quindi anche il frigorifero c'è una pompa di calore. La tecnologia antica, i frigoriferi esistono da 50 anni, che è la tecnologia antica. Sì. Nessuno ha scoperto nulla, queste cose che ti parliamo noi si potranno fare. C'è anche il termine romano, c'è anche il termine romano. Perché non viene mai adottato questo riscaldamento? Perché è un problema di cultura. L'Italia non si è mai fregato di nulla. Cioè, se l'Italia compra il 14% di energia all'estero, che è l'unico paese a comprarla, il motivo ci sarà. Ma parlava di costi, l'appartamento di 100 metri quadri con 300 metri quadri interi di pettina, quanto viene a costare? Quello preventivo, signora. La curiosità, ma la signora è curiosa. Ma io 100 metri quadri, diciamo che la pompa 3.500 euro circa, una buona pompa per la nostra. E poi c'è la messa in opera, c'è il pagamento. Dipende da quanto il lumino per togliere lì, per mettere i punti, ma insomma, per il massimo 10.000 euro. Circa, una cosa così. Comunque altri paesi l'hanno fatte queste cose. Poi, e perché? Ci sono anche altri motivi. L'Italia è fatta come è fatta, non si possono mettere gli scaldamenti a pavimento. O fai sulle case nuove, ok? Allora sono le case vecchie. È un po' complicato, però vanno bene, si sposano bene con le caldaie a condensazione, ovviamente. E invece quel sistema è con i solari termici. Chi vuole fare le cose le fa. Ho letto, c'è un sistema di pompa di calore però con un intercapedine tra un muro esterno e un muro interno della casa. Intercapedine? Ma quello è un sistema passivo. Oh, non lo so, non sono esperto. No, questa camera d'aria faceva da scambiare. Ah, ma questo è un sistema passivo. Sì. No. Un sistema passivo, sì, vero. Se qui metto un doppio muro che ci passa l'aria in mezzo, è chiaro che quest'aria, in base a come mi gestisco la situazione, mi fa il gioco che voglio io, quindi ci possono essere dei fori e io dico, guarda, l'inverno è chiuso perché voglio che ci sia un cuscinetto di aria fra me e l'esterno. Ok, d'estate invece apro un pochettone e faccio sì che l'aria circoli dentro questi due capelli, quindi mi porta via il calore. Forse se sono sistemi passivi, non sono stati molto applicati, però se non volesse costruire con questi criteri, sono dei miglioramenti energetici. però sono molto più interessanti invece questi sistemi qui della pavimento radiante. È molto interessante. Pavimento radiante e che raffredda e raffresca. Poi costa poco. Sì, poi si usa per solare. 10.000 euro in una casa economica. Cioè le costruzioni delle nuove case non applicano niente per quanto riguarda il risparmio energetico. C'è un parecchia, sì. Niente. Nonostante che le normative tutto forza a quella direzione. I controlli mancano, costruiscono anche a Pisa decine e decine di palazzine nuove senza nemmeno un accorgimento di risparmio energetico e produzione energetica. È terribile. Non bisogna fare lavori di imbarcamento, stai costruendo. La maggior parte è proprio questo movimento terra, perché tutto è tutto. Sì, sì, infatti. A me dice tanto, lo senti, anche sono sistemi indistruttibili. Che poi si sposano molto bene, ripeto, col solare termico, ovviamente, perché io ho una massa di acqua a temperatura non molto alta, e quindi aumenta il polmone. Sì, io sì. Un sistema di quello, integrato col solare termico, col puffer. Il solare termico non mi serve più per lavarmi sulle mani, ma mi preriscalda il termosifone, insomma, l'elemento radiante. Poi la parte che manca basterebbe la geotermia, tutta la catena della condensazione, che è il massimo di quello che... La geotermia è ha fatto anche altri conti, perché se io ho una pompa che ha un COP quella maniera, so qual è la mia esigenza termica, so anche qual è il mio consumo elettrico e mandato. Ci metto due pannelli fotovoltaici e più del centro. Scalda da freddo a zero lire. Sono fattibilissime. Va bene. Grazie. Sono bravo, no? Sì. Poi abbiamo appuntamento a domani che ci viene a fare un po' di carta, meglio perché sì. No, adesso cerchiamo di avere le lavagne. Sì, vediamo qualche, magari più in dettaglio. Tante cose sono queste dette oggi, magari approfondiamo quello che volete. Perfetto, noi facciamo 10 minuti di pausa, filmiamo per il pomeriggio, filmiamo le film di stamattina che non sono fatte, e adesso ci abbiamo anche un po' di libri per i ragazzi, che siamo in contatto con una libreria per bambini, se volete un po' dare una sfogliata, e c'è per il tema di tante, e c'è anche degli altri che stanno fanno, e quindi noi abbiamo tutto, no, filmare qui forse registro, filmiamo anche è presente come rito. Mi sembra bello il discorso della geotermia, perché lascia la storia della gente pensa, geotermia la vedendo, no? È proprio la fiscale, il calore della situazione. La geotermia passa, la geotermia è la geotermia, la geotermia la geotermia di Tirandrelle dà anche inquinamento, questo qui no, io prendo così, preso l'appunto, e qui parlava un ingegnere di ingegneria, non lo so, sì, è anche